En Podemos stanno ocurrendo varios fenomeni. In Podemos stanno avvenendo diversi fenomeni. Un primo fenomeno riguarda la stessa struttura, la stessa organizzazione del partito, che in qualche modo ha toccato il fondo, perché dagli inizi, nel 2014 fino ad oggi, il partito si è costruito in base a un'ipotesi immaginaria di guerra elettorale, in modo che l'unico obiettivo era vincere le elezioni per poi trasformare in seguito, istituzionalmente, la realtà politica spagnola. In questo senso, ciò che abbiamo visto è che le diverse correnti politiche dentro Podemos hanno generato, attraverso la loro leadership, diverse lotte di potere che quindi non hanno molto a che vedere con questioni o divergenze politiche, quanto piuttosto con il comando e la gestione degli spazi politici del cambiamento dentro Podemos e anche fuori, Izquierda Unida, ecologisti, movimenti sociali, candidatura di unità popolare, eccetera. Dall'altra parte c'è un altro aspetto, un'altra faccia del problema, che è che da Vista Alegre 2, il secondo congresso nazionale di Podemos, abbiamo visto come Íñigo Errejón, oltre alla Francia anticapitalista, si distanziava dalla linea politica di Pablo Iglesias, che potremmo definire come un eurocomunismo, un post-eurocomunismo. Queste forze hanno perso la votazione e a partire da quel ragionamento, avendo perso il congresso, le posizioni politiche sono andate distanziandosi ogni volta di più. Ora la proposta di Íñigo Errejón, giunta tra gennaio e febbraio del 2019, è ampliare lo spazio politico del cambiamento, ampliare la possibilità di vittoria elettorale assieme ad altri attori, magari con un profilo più moderato nella pratica politica, più di governo per tutti e non governo di parte, e credo che questo abbia generato la situazione in cui Íñigo Errejón abbia scommesso in una lista propria per la Comunità di Madrid, che è avanguardia di questa manovra, denominata Más Madrid. È possibile che, se alle elezioni di maggio la lista ottiene un buon risultato, l'esperimento venga esportato in altri territori dello Stato spagnolo. Potremmo quindi assistere a 4-5 grandi correnti politiche nella sinistra dello Stato spagnolo, e questi correnti potrebbero in qualche modo relazionarsi tra di loro, cooperare, aprendo inoltre la possibilità che questa cooperazione, questa competizione tra diverse correnti politiche, possa rappresentare molto meglio il voto di quelli che scommettono nel cambiamento nello Stato spagnolo, dalla militanza più organizzata fino al contesto politico che aprì il 15M. Credo che ciò sia necessario. Attualmente in Spagna la crisi di Podemos è generale, questa è la grande disgrazia. C'è gente che considera necessario fermarsi e tornare alle relazioni di base, iniziare ad incontrarsi nuovamente in spazi comuni e ricostruire non solamente l'organizzazione ma anche la relazione con i movimenti sociali, iniziare in definitiva a promuovere e spingere per una trasformazione radicale a partire dalla democrazia, a partire dal femminismo, a partire dalle altre reti sociali, incominciando da un attacco al modello di capo di Stato incarnato in Spagna dalla monarchia. Cosa è successo nel partito? Perché non è potuto rimanere all'interno del partito questo problema e risolversi lì? Diciamo che tiene... Podemos hacer una comparación entre lo que significó la experiencia de la socialdemocracia o la experiencia... Si può fare un paragone tra quel che significò l'esperienza della socialdemocrazia e l'esperienza comunista nel XX secolo in Europa, con l'attuale modello di Podemos. Sebbene precedentemente la socialdemocrazia o le organizzazioni dei partiti comunisti integravano e assimilavano differenti attitudini politiche, diverse posizioni, in base alla rappresentatività, questo praticamente in Podemos non esiste. Esiste in una maniera molto minoritaria, e vediamo come questa forma di partito, che non è un partito totalmente democratico ma piuttosto un partito che va dall'alto al basso, è un partito che ha delle gerarchie molto chiare, molto orientato a invocare elezioni e a vincerle. Ciò ha fatto sì che il dibattito politico scarseggi, non si promuovano spazi di discussione politica, spazi intermedi. In ultima istanza, quel che abbiamo visto è la peggior realpolitik, di quella che ti porta in maniera inerziale a dover disputare con i tuoi compagni di partito o con tutti i tuoi compagni di organizzazione idee sui media prima che nei raggruppamenti, nei circoli della tua organizzazione. Io penso che questo sia stato uno dei problemi fondamentali. Per altro verso, credo che ci sia stato un problema politico di fondo. L'errejonismo, la corrente che segue Íñigo Errejón, si è distanziata politicamente molto dal pablismo, dal momento che considerano Pablo Iglesias un leader della sinistra tradizionale e non il rappresentante di una leadership sociale, che voleva trasformare la realtà sociale. Loro pensano che la loro proposta dentro a Podemos e dentro alle esperienze politiche organizzate sia minoritaria, ma che nella società civile sia maggioritaria. C'è uno scontro frontale tra due proposte che porta la militanza, il contesto sociale e la società a dividersi tra l'appoggio a Pablo Iglesias o a Iñigo Errejón. Potremmo dire che Pablo Iglesias sia più radicale e Iñigo Errejón sia più moderato? Può essere, tuttavia io credo che la differenza fondamentale sia su come affrontare il ciclo politico che si apre. Ora stiamo vedendo il risorgere dell'estrema destra, stiamo vedendo come i movimenti sociali siano sotto attacco, stiamo vedendo come attraverso le fake news, la post-verità e un'altra serie di strumenti comunicativi dell'estrema destra il potere si stia riarticolando, stia restaurando il regime del 78. Noi abbiamo la possibilità di fratturare e rompere questa linea di ricomposizione del regime del 78 e lo vogliamo fare fondamentalmente con tutti coloro che considerino il cambiamento politico, sociale, democratico e femminista sia necessario. Questo lo dobbiamo fare contando su Iñigo Errejón e su Pablo Iglesias. Non può essere che le due grandi famiglie politiche della sinistra in questo paese siano tanto contrapposte. Puoi prevedere cosa succederà ora nel partito con Errejón? Credo che va a dipendere dalle elezioni del 26 di maggio. Credo che dipenderà da come vanno le elezioni del 26 di maggio, che sono locali, autonome, cioè regionali, ed europee, visto che le tre elezioni saranno accorpate. Viviamo in tempi in cui è stato frustrato l'orizzonte di cambiamenti radicali e di trasformazione che i movimenti sociali misero in gioco dal 2011 e credo inoltre che può presentarsi uno scenario nel quale convivano tre grandi forze politiche nel campo della sinistra, tre grandi forze di sinistra. Da un lato Podemos con Pablo Iglesias e settori affini, più o meno radicali, più o meno gruppi di estrema sinistra vincolati a Podemos nello spazio politico del cambiamento, dall'altro il Partito Comunista all'interno di Izquierda Unida e infine Iñigo Errejón e la scommessa che vuole realizzare, se esce bene dalle elezioni il 26 maggio, e alcuni alleati. Su un'altra scala, le candidature di Unità Popolare, le candidature del municipalismo possono apportare una prospettiva critica e ancorata al territorio che sarebbe molto interessante sperimentare e che credo sia il cammino per raggruppare di nuovo tutta la galassia di fazioni e di movimenti che si trovano all'interno di questo spazio politico del cambiamento. Io spero che sia così, però credo che al momento avanziamo verso uno scenario nel quale si avranno tre alternative alla sinistra del Partito Socialista. Credo che al momento avanziamo verso uno scenario nel che può avere tre alternative alla sinistra del Partito Socialista.